24 mattino. L'Italia si desta. E speriamo che l'Italia si desti. Buongiorno, ben ritrovati da Gianfranco Fabi. Adesso guardiamo un po' fino alle 8 ai giornali, poi dalle 8:15 alle 9 parleremo ancora di politica, il lavoro dei saggi al capolinea, le ipotesi di legge, di nuova legge elettorale, come quali potranno essere i prossimi sviluppi sul fronte politico, cose di cui parlano i quotidiani e di oggi, centrati su due temi fondamentali, due elementi: il problema del Quirinale, l'opportunità del Quirinale, il voto che ci sarà, che inizierà ad esserci il 18 aprile per rinnovare appunto il mandato al Presidente della Repubblica, nominare un successore a Giorgio Napolitano, e il problema del governo, che è un problema che corre parallelamente a quello del Quirinale e che comunque è intrecciato, volente o nolente, a quello appunto del Quirinale. Sul fronte appunto della corsa al Colle, il Messaggero titola: la corsa al Colle scuote il PD, D'Alema vede Renzi, un errore escluderlo dai grandi elettori, Bersani: io non sono candidato. Le quirinarie dei guillini, c'è anche Prodi, gaffe su Napolitano, gaffe su Napolitano, faccia il nonno, si goda i nipoti, è una gaffe del capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberta Lombardi. Penso che Napolitano ha detto più volte che la sua intenzione è proprio quella di fare il nonno, non c'era bisogno di ricordarglielo. E sulla Stampa: Quirinale, la Lega si smarca dal PDL, Berlusconi in allarme, D'Alema vede Renzi, sbagliato emarginarti, il sindaco: basta schiaffi, se vogliono vengono a cercarmi loro, vertice Bersani Cavaliere, i nomi alla vigilia del voto. E su tutti i giornali si fanno delle ipotesi, le ipotesi su chi potrà essere scelto. Tra l'altro il Foglio ha un articolo di fondo: Quirinabili, guida la diffidenza, un nuovo termine, Quirinabili, chi può essere designato per il Quirinale. Diciamo, facendo una mossa opposta, il Fatto Quotidiano dice esplicitamente: sul Colle non li vogliamo, cioè dice quelli che secondo il Fatto Quotidiano sono gli esponenti che non possono aspirare ad essere eletti, non devono aspirare, guai a chi tenta di farli aspirare al Colle. Chi è troppo anziano come Marini, chi ha giocato su troppi tavoli come Amato, è sempre il Fatto Quotidiano che lo dice, chi come Violante è stato a sinistra e ora piace molto a Berlusconi, chi è al centro di troppe polemiche, Grasso, e poi la Severino, legale dei poteri forti, possibile che il nuovo capo dello Stato non possa essere un nome nuovo, super partes. Ecco, queste è la lista di proscrizione del Fatto Quotidiano, che dice attenti a chi vuole nominare queste persone che a noi non piacciono. Lasciamo che il Fatto Quotidiano lo pensi. E su il giornale: fango per tutti, giochi sporchi sul Quirinale, dopo i veleni del Corriere su D'Alema, Santoro ricicla i minorenni contro Berlusconi, che cosa c'è dietro? Baffino con Renzi per far fuori Bersani e il CAV da 5 giorni nel leader del PD. Questo è il titolo del giornale. Baffino ovviamente si riferisce a Massimo D'Alema, che ieri ha incontrato Renzi. Il paragone che fa Alessandro Salusti, direttore del giornale, è molto forte. Nel 1992 chiude il suo editoriale dopo aver ricordato l'attacco del Corriere della Sera a Massimo D'Alema per la sua presunta presenza all'interno dell'inchiesta per le quote della Rosaria Serravalle, in cui è coinvolto Penati, sempre del PD, e ieri l'attacco a Berlusconi di questo presunto consulente di Noemi, che avrebbe dichiarato che Berlusconi aveva avuto dei rapporti con Noemi quando questa era ancora minorenne. Nel 92 scrive Alessandro Sallusti: la mafia interferì nelle elezioni del capo dello Stato facendo saltare in aria Falcone e la sua scorta durante le votazioni. Oggi altri ci provano con le bufale riciclate. Ci compiacciamo che non scorra più sangue, ma i due metodi sono simili, scrive Alessandro Sallusti sul Giornale. Alludere, intimidire, screditare e uccidere, politicamente parlando, ovviamente. Quindi giochi sporchi sul Quirinale è il titolo del Il Giornale. E invece Libero, che più o meno appartiene alla stessa parte politica, scrive: Renzi Premier, soluzione contro lo stallo. È un titolo grande, con un sottotitolo: la crisi peggiora, soluzione contro lo stallo, rimuovere Bersani e sostituirlo con il sindaco ci sta persino D'Alema. Berlusconi lo proponga a Napolitano, gli dia l'incarico di governare con i voti di PD e PDL subito. Su un altro tema invece ci sono due giornali, Il Manifesto e Avvenire, che aprono la loro prima pagina il tema di Napoli, ancora una volta di Napoli. Ieri si era parlato della manifestazione di protesta dei commercianti, oggi dell'inchiesta e del fatto che sia stata sequestrata l'area di Bagnoli, l'ex area industriale, per una modifica mai effettuata. Una scoria italiana, è questo il titolo del Manifesto. La bonifica di Bagnoli non è mai avvenuta, la procura di Napoli sequestra 3.000 ettari dell'ex Italsider e dell'ex Eternit, infestate da veleni, indagati ex dirigenti accusati di truffa ai danni dello Stato e disastro ambientale. E anche Avvenire, il quotidiano dei cattolici, scrive: bonifiche tragica beffa, un'inchiesta sui lavori dell'ex area industriale di Napoli, 21 indagati eccellenti, integrità della salute a rischio, gravi conseguenze sull'ambiente. L'accusa dei PM a Bagnoli, realizzazioni solo virtuali, un danno irrimediabile, oltre 130 milioni di euro mai spesi o malamente sprecati, e quanto sostiene la magistratura partenopea che ha sequestrato l'area ex Italsider ed ex Eternit, compresa la colmata. L'indagine, partita dopo la morte di una donna per tumore ai polmoni, denunciato l'inquinamento delle zone balneari, i cittadini chiedono la fine delle speculazioni. Il sindaco De Magistris: adesso deve emergere la verità. E sui temi invece più economici, sempre legati alla crisi, il titolo del Sole 24 Ore: lo spread BTP Bund scende sotto quota 300, bene l'asta dei titoli triennali, tassi in calo. Sul Giorno invece le dichiarazioni del Premier Monti: l'Italia non contagia, il Premier stoppia l'Unione Europea, boom di disoccupati e sfiduciati, la BCE peggiorerà. USA, la crisi è già arrivata, passerà spero in 60 miliardi per le imprese. Tutti temi che uno per volta vengono poi sviluppati all'interno del giornale, in primo piano appunto le dichiarazioni di Monti che smentiscono l'allarme che è venuto ieri dal commissario europeo sulla possibilità appunto che la situazione italiana possa contagiare con le sue difficoltà gli altri paesi deboli innanzitutto dell'Europa. E anche sull'economia il titolo principale del Corriere della Sera: conti pubblici, rischio manovra, cassa integrazione e missioni militari da rifinanziare, spese non rinviabili per 6-8 miliardi, la BCE parla di disoccupazione senza precedenti. L'articolo di fondo del Corriere della Sera è di Antonio Polito, una ostinata perseveranza, e il riferimento è ovviamente alla situazione politica, una situazione politica a cui è dedicato anche l'editoriale del Messaggero. Larghe intese necessarie anche al tavolo per il governo e quello della stampa di Luca Ricolfi, ma l'inciuccio può avere delle virtù. Lo vedremo quando ritorneremo a parlare di giornali, ma adesso linea alle previsioni del tempo. 24 mattino. Ben ritrovati, eccoci ancora voi con la lettura dei giornali di oggi. Vi dicevo appunto che si intrecciano i due temi del Quirinale, della formazione del nuovo governo. Siamo a pochi giorni dall'inizio delle votazioni per il Colle, mentre continuano gli incontri un po' sotto traccia per cercare di sbrogliare la questione del Quirinale, del governo, anche se tutto sembra ormai rimandato al nuovo presidente della Repubblica. Repubblica. E un commento di una persona sicuramente informata dei fatti come Bruno Vespa è sul Giorno: intrighi sul Colle, e di questi intrighi parlano un po' tutti i giornali. Che cosa scrive Bruno Vespa? Oggi il tentativo è quello di raggiungere un consenso più vasto, e appunto dopo aver parlato delle candidature possibili di Emma Bonino da una parte e di Romano Prodi dall'altro. Bersani ieri ha fatto smentire le voci, per la verità un po' stravaganti, che davano lui candidato al Quirinale all'interno di un nuovo inedito patto con Berlusconi. In realtà i nomi che hanno maggiore probabilità di farcela sono quelli di Franco Marini e di Giuliano Amato, è il commento appunto di Bruno Vespa. Due personalità con storie molto diverse tra loro, ma accomunate dal fatto di essere entrambi ascrivibili al campo moderato. Marini è cattolico, con buoni rapporti con il mondo laico. Amato è un laico con grande attenzione per il mondo cattolico. Nel centro-sinistra è più forte Marini, precherebbe tra l'altro l'area cattolica, che non ha digerito la sorpresa di Laura Boldrini al posto di Dario Franceschini come presidente della Camera, nella tendenza di Bersani, denunciata ieri da Rosi Bindi, di fare progressivamente del PD il partito della sola sinistra italiana. Marini è ancora Bruno Vespa che scrive: è stato d'altra parte nel centro-sinistra l'interlocutore preferito di Berlusconi. È fatta dunque, non ancora, afferma Bruno Vespa sul Giorno. Amato è fortemente sponsorizzato da Napolitano, ha un forte prestigio internazionale, una vecchia amicizia con Berlusconi che bilancia le diffidenze dei socialisti del PDL. Non a caso Cicchitto vorrebbe al Colle il grande nemico di ieri, Luciano Violante, l'unico capace di riformare sul serio la giustizia e di pacificare il maggiore campo di battaglia della democrazia italiana. Ma, conclude Bruno Vespa, mancano 6 giorni al primo scrutinio e prima dell'immediata vigilia nulla di certo si saprà. Intrighi sul Colle. Questo era il titolo dell'editoriale del commento di Bruno Vespa sul Giorno. Una ostinata perseveranza è invece il titolo del commento di Antonio Polito sul Corriere della Sera, e ovviamente si riferisce alla linea Bersani. E una linea Bersani che per ora, secondo Polito, e non solo secondo lui, ha provocato più caos che soluzioni. Le ragioni del caos, scrive Polito, stanno infatti nella debolezza della proposta del PD per uscire dalla crisi. Il governo di minoranza che Bersani tiene in piedi con l'eufemistica formula del governo di cambiamento è considerato nel suo stesso partito o irrealizzabile o pericoloso da un fronte molto ampio e trasversale. Di conseguenza tutti si preparano al dopo, rafforzando il sospetto reciproco che ognuno stia lavorando per la propria ditta piuttosto che per il partito. Questa guerra, scrive ancora Antonio Polito sul Corriere della Sera, questa guerra di trincea offre del resto il fianco anche alla manovra, come è stato forse il ballon d'assè di una candidatura Bersani al Quirinale. Non è un caso che la segreteria del PD si sia precipitata a smentire l'ipotesi che il negoziatore stia negoziando per sé, soprattutto quando la sua leadership del partito è agli sgoccioli. E conclude Antonio Polito sul Corriere della Sera: non fosse altro che per salvare la sua unità, il PD dovrebbe dunque elaborare finalmente il lutto per la vittoria mutilata, accettare la nuova realtà, proposte e nuove idee, rimettere al centro del suo progetto l'interesse nazionale. Non gli mancano né la storia né gli uomini per farlo, perché errare è umano, ma perseverare è diabolico. E questo è il commento di Polito, che auspica il fatto che il PD torni sui suoi passi e accetti di realizzare un governo con la destra, accettando appunto la proposta di Berlusconi e uscendo da questa impasse. Il ricordo appunto della storia di quanto del passato è stato fatto, lo ha fatto Napolitano dei giorni scorsi, appunto ricordando i governi di solidarietà nazionale, e lo ricorda ancora oggi Gianni Toniolo sul Sole 24 Ore in un commento che dice: un filo rosso lega le crisi risolte della politica italiana. E afferma Gianni Toniolo: la nostra storia unitaria sembra avere in qualche modo impresso nelle corde del DNA del paese la forza e la capacità di uscire, spesso solo alla 23esima ora, da difficoltà che parevano sino all'ultimo insormontabili. A volte nel 1893-94 e nel 1945-47 si seppe uscire dalla crisi addirittura reinventando le vie dello sviluppo sociale ed economico. La consapevolezza di questo DNA può aiutarci a guardare anche al momento attuale con maggiore speranza. Era Gianni Toniolo sul Sole 24 Ore, appunto, che ci invita ad avere speranza, ma la speranza va costruita anche con scelte concrete, con scelte capaci di dare appunto un governo al paese come c'è bisogno. E allora superare un po' gli schemi, superare un po' i vecchi pregiudizi è quello che tenta di fare Luca Ricolfi, un commentatore sempre molto capace, molto lucido sulla stampa, ma l'inciuccio può avere delle virtù, è il titolo del suo commento appunto sulla stampa, in cui si afferma: Bersani ha paura dell'unica soluzione che potrebbe darci un governo non effimero, un accordo serio tra destra e sinistra. Non è difficile indovinare i motivi di tale paura. Se nascesse un governo sostenuto dal PD e dal PDL, l'accordo sarebbe immediatamente bollato come un inciucio, parola di cui nessuno pare conoscere il significato esatto, ma che una ventina d'anni viene usata per descrivere quanto di più torbido la politica è capace di fare: accordi sottobanco, scambi di favori, patti inconfessabili. Non mi sento, scrive Luca Ricolfi sulla stampa, di escludere che questo o qualcosa del genere succederebbe alla fine, e tuttavia mi restano alcune domande. Possibile che la politica italiana, si chiede Luca Ricolfi, e per politica intendo i partiti, opinione pubblica, giornalisti, abbia di sé un'opinione così negativa da dare per scontato che ciò che all'estero ha funzionato, ad esempio in Germania una decina d'anni fa, possa da noi trasformarsi in un mostruoso patto di potere? Perché, si chiede ancora Luca Ricolfi sulla stampa, alla sola idea di un governo bipartisan la parola inciucio scatta automaticamente prima di aver visto le carte, ossia i programmi e le intenzioni? Perché si riescono a immaginare solo compromessi al ribasso, quando quello di cui avremmo bisogno è semmai di selezionare le idee migliori dei due schieramenti, idee che pure esistono? Siamo sicuri di avere tutto questo tempo? Siamo sicuri che imprese, sindacati, lavoratori e famiglie, di fronte al dramma occupazionale che sta affondando l'Italia, abbiano voglia di essere richiamati a votare per l'ennesima volta? Siamo sicuri che le discriminanti su cui Bersani e i suoi stanno respingendo le offerte del nemico siano anche le priorità dei cittadini? È l'ultima domanda di Luca Ricolfi sulla stampa. Ma soprattutto, siamo sicuri che per il PD gli unici due modi di riconquistare la credibilità perduta siano guadagnare umilmente la benevolenza di Grillo e sottrarsi con sdegno all'abbraccio mortale del PDL? E qui la conclusione di Luca Ricolfi. In fondo, i cittadini elettori il loro messaggio l'hanno già mandato, ed è un messaggio chiaro, cari politici. Così non potete andare